Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Cambio al vertice di Barzelletta-Italia, il gruppo nomina amministratore delegato il triestino Michele Cafagna. La regione ritira il ricorso contro la multinazionale perché sono decaduti i criteri di urgenza. Non si terrà l'udienza prevista per oggi. Il caro energia mette a dura prova le piccole e medie realtà imprenditoriali, alle prese anche con richieste di anticipi sulle forniture. Attenzione anche alla tazzina, anche il caffè aumenterà. Il presidente uscente della Camera, Roberto Fico, sarà a Trieste per inaugurare questo pomeriggio il Barcolana Sea Summit, 3 giorni di lavori dedicati alla difesa del Mediterraneo. E ancora emergenza siccità, le falde acquifere rimangono in sofferenza nonostante gli ultimi temporali. Il comune di Pordenone proroga la limitazione all'utilizzo di acqua potabile fino alla fine di novembre. 7 nuove telecamere di sorveglianza a Udine, dal sottopasso del centro studi al quartiere Santo Osvaldo. Lo ha deciso la giunta comunale, che investirà anche 500.000 di euro per sistemare alcuni marciapiedi. Massimo Paniccia, presidente di Confapi FVG, è stato nominato per acclamazione presidente della Fondazione CR Trieste per i prossimi 4 anni. Calcio, 8 partite, 6 vittorie, 3° posto, 1 punto dalla vetta. Per l'Udinese un inedito momento di gloria. Il commento di 2 vecchie glorie del calcio e del giornalismo, Giacomini e Pizzul. Buongiorno da Maria Spezia e Francesca Vigori. Innanzitutto uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno su gran parte della regione, annuvolamenti sulla fascia occidentale. Le temperature a Trieste 15 gradi con mare calmo e con temperatura di 21 gradi. A Gorizia 11 gradi, Udine 12 gradi, a Pordenone 14. A Tolmezzo 8 gradi, a Forni di Sopra e Piancavallo 7, a Tarvisio e Sappada 4, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 1 grado. A Lignano è grado 13, la temperatura del mare è di 19 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: su pianura, prealpi e zona costiera, cielo in genere variabile, poco nuvoloso sulle aree alpine più interne, ma con possibili velature. Soffieranno venti deboli a regime di brezza sulla costa. A Barzelletta-Italia arriva un nuovo vertice, un triestino esperto da 20 anni nel gruppo, Michele Cafagna, in sostituzione di Andrea Bocchicchio. Intanto la regione ha ritirato il ricorso contro la procedura avviata da Barzelletta-Italia a luglio scorso e ritirata a seguito della sentenza del giudice del lavoro. E ieri mattina, in occasione della presenza in fabbrica del numero 2 e 3 di Barzelletta-Italia Corporation, la RSU ha proclamato 2 ore di sciopero. La cronaca nel nostro servizio di apertura. La notizia è arrivata all'improvviso. Andrea Bocchicchio lascia la guida della società. Al suo posto arriva Michele Cafagna, triestino, 49 anni, di cui 20 passati in Barzila. Dimissioni tutt'altro che volontarie, a quanto traspare, richieste dai dirigenti finlandesi e non accompagnate da motivazioni, ma solo da un generico ringraziamento per il lavoro svolto. Le prime parole del nuovo vertice sono di apertura al dialogo. La soluzione migliore può essere trovata nell'interesse delle persone qualificate e motivate di Barzila e della comunità, è la dichiarazione riportata nella nota diffusa dall'azienda. Ma i rappresentanti sindacali temono che sui licenziamenti l'azienda non cambierà idea. L'annuncio del cambio al vertice è arrivato al termine del presidio di protesta organizzato dai dipendenti di Barzila contro la visita di alcuni dirigenti finlandesi allo stabilimento di Bagnoli della Rosandra, che sono stati accolti con fischi e insulti. Intanto la regione ha ritirato il ricorso contro la procedura avviata da Barzila nel luglio scorso, per cui l'udienza in tribunale che era prevista per oggi non si celebrerà. La questione si considera infatti superata dopo l'accoglimento da parte del tribunale del ricorso presentato dai sindacati, che ha revocato la procedura di licenziamento. Se l'azienda dovesse scegliere di fare opposizione al decreto del giudice, la regione potrà ripresentare il suo ricorso. I legali della multinazionale finlandese nel frattempo hanno reso noto di non aver ancora preso determinazioni definitive sul tema. I 15 giorni per decidere se fare ricorso scadranno alla fine di questa settimana. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Il caro energia sta mettendo a dura prova la resistenza delle piccole e medie realtà economiche. Alla difficoltà di ricorrere alla cassa integrazione si aggiunge ora la richiesta di cospicui anticipi sulle forniture di gas e luce. Sempre più difficile per le piccole e medie imprese riuscire a far fronte ai rincari energetici. Le associazioni di categoria da ultimo segnalano anche problemi per il ricorso alla cassa integrazione. la direttrice di Confapio FVG, Lucia Piu. Un'impresa vede che il costo energetico è insostenibile e vuole darsi un diverso modello organizzativo. Pensiamo, vuole produrre solo il lunedì e il martedì chiedendo cassa integrazione, non lo può fare perché la cassa non lo posso chiedere per l'insostenibilità dei costi energetici. A meno che io non sia impresa energivora, ma il problema non è solo delle imprese energivore. Per accedere alla cassa, le imprese energivore devono essere inserite in un apposito elenco non ancora istituito per le gasivore, precisa la direttrice delle PMI, che segnala anche imprenditori in difficoltà per la richiesta di cospicui anticipi, fino anche a 3 bollette, sulle forniture di gas ed elettricità da parte degli operatori energetici. Per Piu, prossimo a porre la questione a livello nazionale, un'anomalia del mercato che sta mettendo in ginocchio il sistema. Soluzioni nell'immediato non ce ne sono, afferma intanto il presidente di Confartigianato FVG Graziano Tilatti, di ritorno da Roma dal vertice nazionale dell'associazione sul tema del caro energia. Gli aiuti messi in campo dal governo non sono facilmente accessibili, rincara Tilatti, che per poter sostenere le imprese nella fase più dura dell'emergenza da qui a fine anno preannuncia un intervento dei Confidi. Si attendono anche gli aiuti della regione e del nuovo governo. C'è il rischio per molte imprese di uscire dal mercato, ricorda Tilatti, che nei prossimi giorni riunirà la sua giunta d'urgenza per pensare ad altre misure per il 2023. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Anche la filiera dei prodotti agricoli investita dai rincari energetici, oltre che dall'aumento delle materie prime. Sentiamo le voci di alcuni piccoli produttori del settore. Tutto è rincarato, addirittura la produzione primaria, il fieno, banalmente il fieno, che è il prodotto più semplice, è raddoppiato, più che raddoppiato. Massimo Cipolat produce formaggi di capra in una piccola realtà di eccellenza della Pedemontana, più volte premiata per i suoi prodotti e che oggi rischia di non reggere il colpo degli aumenti di materie prime ed energia. Non sappiamo esattamente quanto ricaricare, quanto aumentare i prezzi, dove intervenire, anche perché di fatto nelle piccole aziende mancano servizi di consulenza puntuale, analisi puntuale, soprattutto nelle aziende agricole. Come lui, tanti altri piccoli produttori agricoli che abbiamo incontrato al mercato agri zero di Sacile. Sergio Serafin, apicoltore. Un vaso di miele che fino all'anno scorso si vendeva a 13 euro, quest'anno da 13 siamo passati a 14. I costi più pesanti sono intanto le mancate produzioni, poi i trasporti, movimentazione delle api, le visite agli apiari, poi anche le materie prime tipo i vasi, i tappi dei vasi, le etichette. Se prima il consumatore spendeva 100, adesso spende 50. Elena Santarossa, imprenditrice agricola. Abbiamo dovuto aumentare un po' i prezzi, soprattutto adesso in questa stagione, quello del radicchio. L'anno scorso lo vendevamo a 2,50 euro, quest'anno per il momento a 3,30 euro, proprio per l'aumento dei costi del carburante agricolo. In questi momenti su delle piccole realtà come le nostre ne risentiamo molto. Claudio Santin, allevatore. È terribile. Io sono passato da 700 euro di energia elettrica al mese a 3.500 euro. È una cosa insopportabile per un'azienda piccola come la mia, che è un'azienda familiare, diciamo. Come si fa ad andare avanti con costi del genere? Non lo so. Non lo so e speriamo cambi qualcosa, perché sennò non so dove andiamo a finire. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il costo del caffè al banco del bar, che è rimasto invariato per molto tempo, di recente ha visto un primo rialzo, ma è probabile che a breve ne vedremo altri perché la filiera è diventata molto costosa. Se andiamo avanti di questo passo ci costerà anche 1,50 euro. Purtroppo non possiamo fare diversamente. Caffè al banco 1,50 euro, ci stiamo arrivando, dice Arianna Mingardi, terza generazione di una torrefazione di Muggia che da 2 anni sta affrontando un aumento continuo dei costi della materia prima, i costi di trasporto esorbitanti e poi il caro bolletta. Inevitabile mettere mano al prezzo del caffè, conferma Fabrizio Polo, IAS di una torrefazione di Sgonico, di fronte ad energia raddoppiata e gas triplicato. Dalla politica ci aspettiamo tutti un po' più di incisività sulla speculazione. Ci sono stati i rincari nei costi per tutti quanti, ma qualcuno ha tratto degli extra profitti. Significa che c'era lo spazio per lavorare bene, per lavorare meglio, per il bene di tutti quanti. Torrefazioni, impianti energivori per definizione, 150.000 metri cubi di gas all'anno vengono impiegati dall'azienda di Muggia, che dallo scarto della lavorazione produce dei bricchetti che vende come biomassa. Per recuperare energia stanno pensando di noleggiare il tetto del capannone ad un'azienda che installerà pannelli fotovoltaici e li gestirà. Questo permetterebbe a noi di affittare il tetto, ma di ridurre il costo dell'energia di un 10% e di toglierci anche tutti i costi di servizi di gestione e di trasporto e distribuzione sino a noi. E ci darebbe un po' di sfogo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. La difesa del Mediterraneo al centro del Barcolana Assisa ammette una 3 giorni di lavoro dedicati alla sostenibilità attraverso la collaborazione internazionale, la scienza, la tecnologia. L'evento si inaugura alle 16 al Trieste Convention Center, al magazzino 28 del Porto Vecchio, ed è prevista la partecipazione del presidente uscente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. Nella prima giornata sarà affrontato, tra l'altro, il dialogo con la generazione Z, i nativi ambientalisti, anche con un intervento da remoto dell'attivista inglese Raj Patel e l'incontro con l'insegnante scrittore Enrico Galliano e Sara Segantin, scrittrice e cofondatrice di Fridays for Future Italia. Il matematico Pier Giorgio Di Freddi spiegherà la sostenibilità come fenomeno complesso tra economia, finanza e matematica. I recenti temporali non hanno migliorato la situazione delle falde che alimentano l'acquedotto pordenonese. L'emergenza siccità quindi permane. Per questa ragione il Comune di Pordenone ha emesso una nuova ordinanza che proroga la limitazione all'utilizzo di acqua potabile per altri 2 mesi, dunque fino alla fine di novembre. L'ordinanza sottolinea l'obbligo di limitare l'uso dell'acqua potabile ai soli fini potabili e igienico-sanitari, vietando dunque utilizzi diversi come l'irrigazione di giardini, orti e parchi e il lavaggio di automezzi, salvo impianti autorizzati. L'eventuale uso di acqua potabile da rete idrica pubblica, seppur sconsigliato, può avvenire solo dalle 22 alle 7 della mattina. Per i trasgressori sono previste sanzioni comprese tra i 25 e i 500 euro. Massimo Paniccia, presidente di Confapi FVGU, è stato nominato per acclamazione presidente della Fondazione CR Trieste per i prossimi 4 anni. Nella stessa riunione Massimo Campailla, docente universitario, è stato nominato vicepresidente del Consiglio Generale della Fondazione. Ringrazio della fiducia e delle attestazioni di apprezzamento manifestate nei miei confronti dal Consiglio, ha dichiarato Paniccia, che testimoniano la condivisione per l'attività svolta in un clima di grande unità dalla Fondazione in questi anni e ci spronano a proseguire e migliorare al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, creando valore e benessere per la comunità locale. Telecamere di sorveglianza e rifacimento dei marciapiedi al centro dei lavori della Giunta Comunale di Udine. Tra i vari ambiti di intervento della Giunta Comunale di Udine, 2 sono in particolare evidenza: telecamere di sorveglianza e rifacimento dei marciapiedi. L'assessore Alessandro Cianni ha fatto approvare una delibera per installare 7 nuove telecamere in zone della città dove la rete di sorveglianza era carente o addirittura assente. Una andrà nel rinnovato sottopasso del centro studi, 2 su insistenza degli abitanti in via Murati e altre 4 nel quartiere di Santo Svaldo, dove mancavano del tutto. Questo ulteriore intervento è stato reso possibile grazie all'avanzo di bilancio dell'appalto che mesi fa ha portato nella città di Udine 66 nuove telecamere, raggiungendo il numero complessivo di 180. Erano 69 prima della giunta Fontanini. È di 500.000 euro invece la delibera del vice sindaco Michelini, che interesserà i marciapiedi di 8 strade cittadine, dove saranno eliminate anche le barriere architettoniche e allestiti segnali tattilo-plantari per ippovedenti e disabili visivi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Da luglio ad oggi il Friuli Venezia Giulia può contare su 151 milioni in più di risorse assegnate per fondi PNRR, che ora ammontano in tutto a 1.690 milioni di euro. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, che ha presieduto a Trieste la riunione regionale sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Dei 151 milioni di euro aggiuntivi, 76 sono destinati ai comuni per piccole opere di resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica. È dedicato in particolare agli anziani il nuovo servizio organizzato dalla Caritas di Udine. Si tratta di una sorta di biblioteca particolare dove ad essere protagonista, più che la passione per i libri, è il desiderio di socializzare. Un nuovo spazio dedicato alla lettura e alla socialità nello storico borgo udinese di Via Pracchiuso è quello inaugurato al numero 87 nei locali accanto al centro di accoglienza Il Fogolar, ospitato nella casa natale della fotografa Tina Modotti. Un servizio voluto dal Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine, dedicato in primo luogo agli anziani che più soffrono l'isolamento sociale, ma aperto a tutti, anche alle associazioni del territorio che potranno svolgere le loro attività. Alberto Barone, della Caritas di Udine. L'idea nasce da un accordo, una convenzione che Caritas fa con la Biblioteca Civica di Udine per aprire un punto di book crossing, ma che non vuole essere solo un punto di book crossing, ma uno spazio per le relazioni. Mettiamo a disposizione questa sala per le persone che vogliono intrattenersi sia nella lettura, ma anche ci sarà la possibilità di organizzare dei corsi. I libri presenti nel nuovo spazio sociale non sono in prestito e quindi non vanno restituiti. Chi li prende, però, si assume l'impegno, una volta finiti, di lasciarli in un luogo pubblico a disposizione di altri lettori. Nel locale di Via Pracchiuso ci si potrà inoltre fermare e socializzare, navigare su internet e sfogliare quotidiani e periodici. Il tutto con il supporto di operatori della Caritas che garantiranno l'apertura dello spazio il mercoledì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12. L'organismo diocesano punta a formare nuovi volontari, così da poter ampliare al più presto gli orari di accesso. Udine, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. E a ricordo di Norma Cossetti, uccisa nel 1943 da partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani in Istria, la cerimonia è intitolata Una rosa per Norma, una scelta d'amore, che si terrà a Monfalcone al monumento ai caduti di Via Fratelli Rosselli alle 17. Altra iniziativa in memoria di Norma Cossetto, quella organizzata a Trieste alla Stele, a lei dedicata nell'omonima via alle 18, con una cerimonia organizzata dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, in cui il sindaco Roberto Di Piazza deporrà una corona d'alloro e renderà omaggio al sacrificio della martire. I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale hanno restituito alla Biblioteca Statale Esontina di Gorizia un volume sottratto in modo illecito. Si tratta di una ristampa del 1890 del Canzoniere di Petrarca. L'opera è stata riconsegnata al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia, che ha portato all'individuazione e al recupero del volume a seguito del costante monitoraggio dei siti di commercio elettronico da parte dei militari del nucleo tutela patrimonio di Udine. Il venditore, ritenuto inconsapevole della natura pubblica del bene culturale che aveva di fatto ereditato dai discendenti di un lontano parente originario di Caporetto, è stato identificato ed invitato a consegnare il libro antico. Siamo al calendario di appuntamenti di oggi della Barcolana, che include l'incontro del compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia con insegnanti e studenti delle scuole secondarie per l'evento intitolato Haters e Piccoli Eroi con la Polizia di Stato alla Barcolana per una navigazione online più sicura, e inteso a sensibilizzare sui rischi della navigazione online e sul contrasto ad ogni forma di discriminazione. Questo appuntamento si svolge in Porto Vecchio, al Trieste Convention Center, dalle 10. A seguire l'esibizione delle moto d'acqua della Polizia di Stato nello specchio d'acqua davanti al Molo Audace alle 14.30. Passiamo allo sport con il calcio e un udinese che sorprende, diverte e soprattutto che vince. I bianconeri hanno sbaragliato gli avversari per 6 volte di fila. Sentiamo dunque l'analisi di questo momento d'oro da parte di 2 vecchie glorie del calcio e del giornalismo. Non era mai accaduto nella storia bianconera che l'Udinese vincesse 6 volte nelle prime 8 giornate di Serie A. Un risultato inatteso per società e tifosi che ha portato la squadra di Sottil ad un punto dal vertice della classifica della massima serie, dietro a Napoli e Atalanta, prossimo avversario dei friulani domenica a Udine. Un momento magico, figlio di una compagine molto unita, sotto la sapiente guida del tecnico Sottil, Massimo Giacomini, ex allenatore dell'Udinese. La sua squadra si allena come quando gioca le partite, cioè in allenamento c'è grande sofferenza e grande attenzione. Un inizio a tutto gas che però troverà respiro a metà novembre con la lunga pausa di campionato per i mondiali in Qatar. Il discorso di fare questa prima fase a sprombattuto ha poi nella seconda fase, che è la fase di riposo perché si giocano i mondiali, si può ristabilire, diciamo, le energie. Una classifica che inevitabilmente porta a sognare l'Europa. Bruno Pizzul, ex telecronista Rai della Nazionale di Calcio. È giusto che la squadra prenda consapevolezza della propria forza, ma è anche giusto, come sottolinea lo stesso Sottil, che bisogna stare coi piedi ben piantati per terra, perché quando c'è un entusiasmo così dirompente bastano un paio di risultati negativi perché si cada in depressione. Una realtà vincente, frutto anche di un lungo e oculato lavoro da parte della società. Quest'anno la gestione societaria è stata particolarmente brillante, perché si sono tenuti a posto i conti, che è cosa importantissima, e sono arrivati dei giocatori che francamente prima che arrivassero qua ben pochi conoscevano e che invece stanno dimostrando di essere pienamente all'altezza. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un lutto ha colpito l'Udinese Calcio, è morto Lorenzo Toffolini, già team manager dei bianconeri. Ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto ieri mattina a Ciconicchio di Fagagna, è uscito di strada. Udinese Calcio e la famiglia Pozzo piangono la scomparsa tragica e improvvisa del nostro Lorenzo Toffolini, colonna del club e della società da oltre 30 anni, dice una nota di cordoglio della società bianconera, dove Toffolini era attualmente responsabile dell'ufficio affari generali. È impegnato molto attivamente nell'area commerciale del club. Passiamo alla Serie C di calcio. Primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, appunto per la Triestina, che allo Stadio Rocco affronterà l'Arzignano Valchiampo con fischio d'inizio alle 18. Finito in pareggio l'incontro di 3 settimane fa fra le due squadre. Anche il Pordenone è impegnato in Coppa Italia con il match in programma allo stadio di Lignano contro Limolese con inizio alle 15:30. Si suppone che l'allenatore neroverde Di Carlo schiererà in campo giocatori che non sono ancora scesi in campo per contare su una formazione in ottima forma. Quinta edizione per il Festival del Coraggio, in calendario da oggi fino a domenica 9 ottobre, che quest'anno conta tra gli ospiti nomi del calibro dello psichiatra Paolo Crepè, dello scrittore Paolo Rumiz e del giornalista Lorenzo Cremonesi. In programma incontri, spettacoli teatrali, concerti e mostre che saranno ospitati a Cervignano, al Teatro Pasolini, alla Casa della Musica, al Giardino dei Diritti e in Biblioteca Civica. Primo appuntamento di oggi, quello intitolato Piccoli libri coraggiosi, dedicato ai libri e alle professioni che vi ruotano intorno, che è in programma alla Casa della Musica dalle 14:30. A Mauro Daltin, direttore artistico del festival, abbiamo chiesto l'obiettivo della manifestazione. L'obiettivo è quello di provare a raccontare i vari aspetti del coraggio, che vuol dire anche le nostre paure, le nostre fragilità, ma anche le paure e la fragilità del mondo. E allora un festival di 5 giorni serve anche per fermarsi a riflettere, anche insieme ai ragazzi, agli studenti, agli adulti, sul mondo di oggi. È una edizione molto attuale, che lavora molto sull'attualità e che racconterà molti posti del mondo. C'è un filo rosso degli eventi di questa edizione? Il filo rosso l'abbiamo individuato in un'immagine, quella della bussola, dove riteniamo che siano tempi in cui rischiamo di perdere un po' le coordinate e le certezze che ci hanno caratterizzato fino ad adesso. Sembra che tutto un po' ci crolli attorno, abbiamo nuove paure, nuove diffidenze, e allora bisogna mettere in campo anche nuovi tipi di coraggio. E allora questo è un po' il filo rosso, di provare a capire quali sono i nuovi tipi di coraggio da utilizzare per affrontare i tempi così complessi. Tra i vari eventi, quali lei raccomanda in modo particolare? Raccomando l'inaugurazione con Simonetta Gola, compagna di vita e di percorso insieme a Gino Strada con Emergency. Consiglio sabato sera Paolo Rumiz con la sua visione straordinaria dell'Europa. Consiglio domenica pomeriggio una bellissima testimonianza di questa giovane giornalista di Leopoli che arriva a Cervignano e ci racconterà uno straordinario viaggio di 11.000 chilometri lungo i confini dell'Ucraina. Pierpaolo Pasolini, giornalista a Corsaro, e la conferenza a cui interverranno Cristiano Degano, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, e il giornalista Alberto Sinigaglia. Quest'ultimo, già redattore del Corriere della Sera, conobbe personalmente Pasolini e parlò con lui al telefono la mattina della morte dell'intellettuale di Casarsa nel novembre del 1975. L'appuntamento è alla Tisana, nella sala conferenza dell'ex stazione ippica, alle 18.30. Prima giornata per la rassegna di 4 giorni, oltre il festival, dedicata alla libertà di espressione e organizzata dall'Associazione Culturale Le Ali delle Notizie. In discussione la libertà di espressione in regimi dittatoriali, dalla Berlino Est del passato all'Egitto in cui è morto Giulio Regeni. Sotto i riflettori anche la lotta per la libertà, dall'Afghanistan all'Italia, con il caso di Gaetano Saffioti, che ha cercato di sconfiggere i boss dell''Ndrangheta in Calabria. Gli incontri si terranno a Ronchi dei Legionari, nell'Auditorium Casa della Cultura, in Piazzetta dell'Emigrante, alle 20.30. Oggi l'appuntamento è con il documentario intitolato Tunnel della Libertà di Marcus Vetter, che racconta la storia dei goriziani Luigi Spina e Domenico Sesta, che nel 1962 a Berlino Est organizzarono la costruzione di un tunnel sotto il muro per consentire la fuga delle persone. La faglia sacra, cioè il confronto scontro nel crocevia alto adriatico di confessioni diverse e del loro intrecciarsi con motivazioni statuali, ideologiche e linguistiche, sarà il tema dell'evento condotto da Tomasz Simcic a Trieste al Circolo della Stampa di Corso Italia alle 17.30. L'iniziativa fa parte del progetto Il Confine dentro il confine. Il cartellone della rassegna Le giornate del cinema muto prosegue con la proiezione dell'islandese La storia della famiglia di Borg del 1920, girato da Gunnar Sommerfeld. Sullo schermo la storia epica di una famiglia nell'arco di 20 anni, con un lavoro che segna l'inizio della produzione cinematografica in Islanda. La proiezione è prevista a Pordenone, al Teatro Verdi, alle 21. Nella sezione Venezia 90 della rassegna, alle 14, verrà invece proposta La traccia bianca, pellicola del 1932 che rappresentò la Polonia alla prima mostra internazionale d'arte cinematografica. La qualità del film è data dalla novità delle arditissime riprese di sport invernali che negli anni seguenti vennero anche saccheggiate da altri film. Altro appuntamento alle 11.30 è quello con la pellicola Tentazioni del 1920 di Norma Talmadge, in cui l'attrice si esibisce in una doppia interpretazione di una donna ricca e di una donna povera. È in calendario fino a domenica 9 ottobre la Fiera Casa Moderna, che tra gli eventi di oggi propone quello con Mattia Alessio, in programma alle 17.30. Genovese, classe 1992, appassionato di faccende domestiche, Alessio è esordito nel 2017 con i primi video tutorial su YouTube, giunti oggi a oltre 10 milioni di visualizzazioni. Oggi il suo account La Casa di Mattia conta un seguito di oltre 500.000 di follower sui vari social. L'ingresso alla fiera è gratuito nei giorni feriali e senza preregistrazione. Gli stand sono aperti dalle 14 alle 20. Sono le 7:46 minuti 30 secondi. Diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani oggi in edicola, partendo dal Messaggero Veneto, che nell'edizione di Udine apre con il Recruiting Day Young, cioè la giornata di reclutamento personale per le persone sotto i 35 anni, che è in calendario il 27 ottobre e di cui vi abbiamo dato conto ieri nella nostra edizione delle 18.30. Fotonotizia per l'apertura del bunker della Guerra Fredda a Purgessimo, che un privato ha ora aperto al pubblico come una sorta di museo. Per la politica le perplessità tra gli esponenti regionali della Lega verso il progetto di Comitato del Nord lanciato da Umberto Bossi. 3 poi servizi dedicati alla scomparsa di Toffolini, di cui vi abbiamo appena dato conto. Capocronaca nell'Interno, l'aumento delle telecamere di sorveglianza deciso dalla Giunta Comunale, di cui vi abbiamo dato notizia anche poco fa. L'edizione di Pordenone invece del Messaggero Veneto apre con il capocronaca sul perdurare del razionamento idrico di cui vi abbiamo appena parlato. E in fotonotizia si occupa del funerale di oggi dell'industriale Armando Cimolai, mancato domenica in prima serata. Ancora cronaca poi con il decesso di un 36enne ritrovato nel fiume Noncello. Si ipotizza che l'uomo, residente in un'auto posta a bordo fiume a seguito dello sfratto che gli era stato ingiunto, non abbia retto la bassa temperatura dell'acqua fluviale in cui si era immerso per lavarsi. Da una prima indagine, infatti, sul suo corpo sono stati ritrovati segni che ricondurrebbero a un problema cardiaco. Varsila cambia i vertici, apre la fase del dialogo nella prima pagina del Piccolo di Trieste. Via l'ex numero uno Bocchicchio, accolti da fischi e da 2 ore di sciopero i manager finlandesi arrivati in fabbrica per illustrare lo scenario ai lavoratori. Richiama in prima anche per la rielezione all'unanimità di Massimo Paniccia alla presidenza della Fondazione CR Trieste. E l'economia con l'intervista al presidente di Illy Caffè Andrea Illy sul rinnovamento dell'azienda triestina e l'annuncio in borsa entro il 2026. Il fascicolo di Trieste apre con la cronaca. Urtano l'auto in costiera e gli rubano l'orologio. Riecco la banda dei Rolex. L'edizione del Piccolo di Gorizia dedica l'apertura della prima pagina alla candidatura del Collio Brd a patrimonio UNESCO. L'assessore Gibelli la presenteremo a primavera. Nella cronaca i costi della pulizia del centro del capoluogo esontino dopo i 4 giorni di festa. Sporco, rifiuti e macchie di grasso. Il titolo: ripulire gusti di frontiera costa 40.000 euro. Nel capocronaca di Monfalcone la prospettiva del comprensorio Terme Romane. Se la piscina trasloca all'Isert ci rimette il mandamento. L'apertura del Gazzettino è per il ritorno a limitazioni nelle strutture sanitarie a causa dell'aumento dei contagi Covid. Vietate dunque le visite dei parenti nelle RSA, quindi le residenze sanitarie per anziani, ripristinati gli ingressi differenziati negli ospedali, tampone obbligatorio per tutti i ricoverati. Spazio poi al progetto di termovalorizzatore di Ponte Rosso, che ora sta acquistando consensi a causa dei rincari energetici. L'edizione di Udine del Messaggero Veneto in fotonotizia si occupa della riunione di ACLIF, l'Assemblea Comunità Linguistica Friulana, in cui è presidente Marcus Maurmaier e che ora si auspica un maggiore spazio nelle trasmissioni RAI della lingua friulana. Per il calcio un'analisi dell'ottima partenza di campionato dell'Udinese di cui vi abbiamo appena parlato. L'edizione di Pordenone del Gazzettino propone un reportage dal centro commerciale di Aviano, di cui ora 7 negozi andranno all'asta per spese condominiali mai pagate. D'altra parte godono invece ottima salute altre attività dell'area. Per il calcio si legge un'analisi delle chance del Pordenone nella partita di stasera. Si intitola Uno scaffale di libri senza confini in biblioteca, l'iniziativa a promozione del dialogo fra varie culture tra i giovanissimi che fa ricorso alla biblioteca, cioè al punto lettura della biblioteca diffusa del comune di Trieste. Per l'occasione Elisabetta Lippolis dell'Associazione di Commercio Ecosolidale Senza Confini dialogherà con Roberta Garlatti, referente regionale dell'iniziativa Nati per Leggere, e con Laura Di Benedetto del progetto Biblioteca qua a Trieste alla libreria Lovat alle 17.30. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vueo Fevelin D, che parlerà di Casa Moderna in corso nel quartiere fieristico. Alle 11.20 circa in onda A Volo Radente. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. È tutto per questo notiziario condotto e redatto da Maria Spezia e Francesca Vigori. Giampaolo Zucchi ha curato la parte tecnica, Daniela Sossi ha collaborato in redazione. Il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 12.30. Grazie per la cortese attenzione. Buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.